La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Nella calura di luglio, un saluto da Franco D'Assisti. Questa è la rosa purpurea, versione estiva, extended version, come si diceva una volta. Un'ora insieme per parlare di cinema il sabato e poi anche in replica la domenica pomeriggio per tutto il cinema che c'è in sala. Non è tantissimo, ma qualcosa si muove, da vedere a casa e soprattutto con l'occhio già puntato a quello che succederà durante la stagione autunnale per il cinema italiano. E voglio dirvi sin d'ora che avremo ospite, oltre a Remo Girone fra poco, che ci racconterà la sua partecipazione nel film Michael Jackson, che è già nelle sale. Dicevo, per quanto concerne l'autunno, sarà con noi Diego Abbatantuono, che ci racconterà la sua partecipazione in Soap Opera, che è una delle commedie più attese della prossima stagione autunnale. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il grande blockbuster che arriva nelle sale in questo fine settimana. Spesso si dice la stagione bisogna allungarla, bisogna mettere prodotto importante nei mesi di luglio e di agosto. Ancora i distributori e gli esercenti non sempre ci sentono sotto questo punto di vista, ma certamente questo film fa questo tipo di politica. Stiamo parlando di Transformers 4, distribuito in quasi 700 cinema in tutta Italia in questo fine settimana. Ascoltiamo la clip. Dopo tutto ciò che abbiamo fatto, gli umani ci danno la caccia. Adesso siamo tutti bersagli, temo. Che cos'è? Chi ti ha mandato qui? Questa non è guerra. È estinzione umana. Quanti altri della mia razza dovranno essere sacrificati? Devi aver fede, Prime. Forse non in chi siamo, ma in chi possiamo essere. Un po' sequel, ma anche un po' reboot. Di solito quando si arriva al quarto capitolo di una saga si rischia moltissimo. Invece stavolta questo Transformers 4, sempre diretto da Michael Bay con Mark Wahlberg, Stanley Tucci e tanti altri attori, rischia di essere quasi forse il capitolo più interessante del quartetto. Noi chiediamo conferma di questa ipotesi al nostro Transformer personale, Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi e si trasforma in critico cinematografico. Ciao Boris. Salve Franco e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma di sicuro è un sequel travestito da reboot o il contrario, anche se parlando così probabilmente ci facciamo capire da pochi, ma siamo costretti dal nuovo cinema, dal nuovo vecchio cinema che punta sempre sulle stesse cose, a utilizzare certi anglicismi, a utilizzare un certo vocabolario. Il film ha sicuramente, Transformers 4, l'età dell'estinzione, questa caratteristica quasi intimista, affidata ai robot più che agli uomini, che potrebbe essere uno spunto estremamente interessante per renderlo appunto dei quattro il lavoro più intelligente della saga, più forte della saga a livello contenutistico. Il problema secondo me fortissimo però del film è che Michael Bay qua non ha né i soldi che aveva nel 2 e nel 3, né la voglia con gli umani di agire oltre il suo eterno semplificare un po' immaturo i tratti emotivi, e quindi ci si ritrova con dei robot decisamente più intelligenti degli umani. Insomma, Wahlberg ha un'espressività che è decisamente minore rispetto a quella di Optimus Prime, non parliamo poi delle battute e del modo in cui le dice, e questo insomma crea uno squilibrio molto forte, anche perché chiaramente delle macchine robot non è che possono avere chissà quale capacità di cambiare e di evolversi in un film che comunque dura 165 minuti e che avrebbe bisogno di un'evoluzione, di una forza narrativa, espressiva, di una potenza e di tante svolte di sceneggiatura. Qui ci ritroviamo invece per un'ora a non vedere di fatto gli Autobot nei Decepticon se non in pochi secondi, assorbirci le crisi adolescenziali della figlia di Mark Wahlberg, che come d'ordinanza indossa degli short di jeans molto sexy, ma che non sembra essere molto intelligente, e c'è da dire che c'è poco carisma nei personaggi, cioè sia Wahlberg sia chi ha preso il posto di Shia LaBeouf, di Rosie Huntington e di Megan Fox, insomma, non hanno la forza di quelle che sono diventate volenti o nolenti delle icone. Ecco, Transformers 4 mi sembra dei quattro quello che era più ambizioso, e su questo hai ragione, ma anche dei quattro quello che aveva meno possibilità di riuscire, e quindi alla fine è meno riuscito, proprio perché non aveva né abbastanza risorse finanziarie né la capacità di essere un po' più profonda degli altri. Su, vieni! Papà, spendi troppi soldi in rottami. Li smonto per i pezzi di ricambio. Questa roba ti pagherà il college. Quello che c'è lì dentro ci renderà un po' di soldi. Andiamo, vecchia carcassa. È il giorno del giudizio. Che ti è successo? Guarda, non è normale, acciaio. E questo non è un camion. Abbiamo trovato un Transformer. E questa era un'altra clip di Transformer. Ricordiamo, ecco, cosa vuol dire reboot, così giustamente, come poneva Boris il problema, rischiamo di farci capire poco. Per reboot si intende, per chi non lo sapesse, la riedizione, la nuova prima volta di un film. Tante volte i film vengono semplicemente rifatti, ma non è un remake, è una sorta di ripartenza da un altro punto di vista. E allora questo è un po' quello che succede in questo Transformers 4, che ha avuto molte critiche positive, soprattutto in America, dove Michael Bay è stato stroncato più e più volte, ed effettivamente è un film che, con tutte le sue lungaggini, perché 165 minuti vogliono un pubblico molto complice, diciamo, in questa cosa, però sicuramente vale la pena di andare a vedere. È sicuramente il filmone di questa settimana e direi di tutto questo periodo. Finalmente riuscirà probabilmente a dare una botta a un box office praticamente stagnante da qualche settimana, dove anche nello scorso weekend Mai così vicini di Rob Reiner ha conquistato la prima posizione con 293.000 euro di incasso, che è un incasso che a settembre non ti fa entrare neanche al 20° posto, e che vede ancora al secondo posto Maleficent, giusto per dire come bastino veramente due briciole in questa fase per diventare primi in classifica. Chiaramente il film di Michael Bay farà qualcosa di più di due briciole. Adesso noi invece ci spostiamo in territorio mito, perché ci sono film che non muoiono mai, ci sono film che anzi risorgono e che a ogni sguardo e a ogni nuova proiezione diventano nuovo materiale negli occhi dello spettatore. Stiamo parlando di un capolavoro immortale di Sergio Leone, Il buono, il brutto e il cattivo. Perché ne parliamo? Perché da questo fine settimana il film è distribuito in oltre 60 sale, quindi con un'uscita veramente da prima visione nazionale, nella sua versione restaurata, splendida, vista al Festival di Cannes e poi adesso fatta circolare in distribuzione normale, nel cinema assolutamente di prima visione. Un film che ha dentro tutto quello che ci deve essere nel grande cinema e nel grande western. Ascoltiamo questa clip. È passato tanto tempo, vero Tuco? Ogni volta che avrei dovuto usare la destra, ho pensato a te. Ma finalmente ora ti trovo nella posizione giusta. E ho avuto tutto il tempo di imparare a sparare con la sinistra. Quando si spara, non si parla. Ogni pistola ha la sua voce. E questa la conosco. Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Sergio Leone in cabina di regia, Ennio Morricone in quella musicale, insomma, c'è da alzarsi e andarsene oggettivamente di fronte a tanta materia di questo tipo. 174 minuti e 176 minuti, ma stavolta pesano sullo spettatore la metà di quelli di Michael Bay. Boris, come si approccia un capolavoro come Il buono, il brutto e il cattivo allo spettatore di oggi? Perché ricordiamo, c'è più di una generazione che questo film sicuramente sul grande schermo, ma forse neanche sul piccolo l'ha mai visto. Quello è un capolavoro, come hai detto tu, fa impressione. 10 minuti in più di Transformers 4 e non li senti neanche. Un'opera meravigliosa che adesso, devo dire, forse perché è stato citato ossessivamente da tutti i registi di genere che sono venuti dopo, sembra quasi più attuale che allora, pur essendoci una grana molto diversa, pur essendoci una tempistica, un ritmo, un montaggio completamente diverso dal linguaggio cinematografico a cui siamo abituati, noi ci ritroviamo davanti a qualcosa che ci sembra essere girato ieri. Avete sentito queste due battute? Tarantino, con tutto che è un personaggio che stimo e che secondo me in scrittura dà il meglio, se le sogna due frasi così efficaci, ed è uno che ci ha raccontato e ci ha detto e ci ha mostrato e ci ha proposto aforismi straordinari. Sergio Leone aveva questa caratteristica incredibile che poi forse il cinema italiano ha perso: la capacità di essere un grandissimo autore. Si pensi a C'era una volta in America, una grandissima mano, un grandissimo occhio, ha inventato certi modi di vedere. Forse nel cinema italiano a livello visivo solo Dario Argento è stato così innovativo a livello anche tecnico, e allo stesso tempo però era un uomo che lavorava per il pubblico, che riusciva a trovare, penso anche da produttore con Verdone, una strada preferenziale con chi era dall'altra parte dello schermo. E Buono, brutto e cattivo è la dimostrazione, è un film persino semplice nella sua struttura, nella sua narrazione, nella sua volontà di raccontare un universo anche antico e personaggi assolutamente archetipici, stereotipati, ed è però un lavoro che, come dicevamo, le sue tre ore non te le fa sentire affatto, perché è intrattenimento puro. Quando ti dice che non bisogna parlare, bisogna sparare, ti viene in mente Carpenter, ti viene in mente quel modo di divertirsi, di essere anche guascone alla macchina da presa e di creare una complicità con il pubblico che lo faccia divertire. Per poi non parlare di quando Clint Eastwood, Eli Wallach, recentemente scomparso, Lee Van Cleef, ma non dimentichiamo anche Aldo Giuffre, che in questo film è importantissimo, riescono ad arrivare ad apici di recitazione da Tragedia Greca. Insomma, Il buono, il brutto e il cattivo è un regalo incredibile che viene fatto allo spettatore da rivedere sul grande schermo, o addirittura da vedere, perché parliamo anche di tanti teenager, parliamo anche di giovani uomini e donne che non l'hanno potuto vedere al cinema. Insomma, è assolutamente imperdibile. Volendo fare una battuta, potete perdere Transformers 4, ma non Il buono, il brutto e il cattivo sul grande schermo. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai citato Dario Argento, che guarda caso ha fatto parte del laboratorio di Sergio Leone proprio in sceneggiatura. Ricordiamo anche, tra l'altro, che in questo film Sergio Leone tira fuori un'altra delle sue trovate, questo triello, come è stato rinominato, cioè un duello a tre praticamente di pistoleri, che diventa il più famoso della storia. Copia restaurata dalla Cineteca di Bologna, io l'ho visto recentemente alle giornate del cinema di Riccione, uno splendore unico, un audio secco, pulito, e questi ritmi che sono i ritmi dell'asciuttezza di Sergio Leone, che riusciva a essere asciutto nelle sue tre ore di narrazione, ed era veramente un miracolo. Il buono, il brutto, il cattivo nei cinema italiani, in 60 cinema italiani, quindi date un'occhiata su internet e andate a guardare un po' qual è quello più vicino alla vostra città. Non fatevi scappare questa possibilità, qualsiasi età voi abbiate, è un film assolutamente da vedere, e da vedere nello splendore del grande schermo, perché lì capiamo cosa vuol dire vedere i film al cinema, o cosa vuol dire vedere le croste davanti al computer. Tu ti credi meglio di me. Ma dalle nostre parti, se uno non vuole morire di fame, o fa il prete o fa il bandito. Tu hai scelto la tua strada, io ho scelto la mia. È la mia la più dura. Tu parli di padre e di madre, ma quando te ne sei andato a fare il frate, io sono rimasto. Avevo 10-12 anni, c'era da scopare, e io l'ho fatto. E sapevo che era inutile. E adesso sai cosa ti dico? Tu ti sei fatto frate solo perché sei troppo vigliacco per fare quello che faccio io. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, seconda parte della Rosa Purpurea, ancora le novità in sala in questa settimana, che non è pienissima di film, lo sarà molto di più la prossima, però c'è molto di cui parlare. Cinema indipendente italiano cerca di trovare strade che siano internazionali, cerca di trovare strade e codici di espressione che non facciano sentire proprio sempre tutta l'italianità. In questo caso è un tentativo sicuramente interessante quello che fanno Francesco Calabrese ed Enrico Audenino, che portano in sala da questo fine settimana un film che si intitola Michael Jackson, scritto esattamente come si pronuncia, Michael Jackson. Non è un film su Michael Jackson, ma questo film prende il titolo da un personaggio molto, molto divertente, quello di un ragazzino che appunto pensa, dice, sostiene di sé di essere uno dei figli di Michael Jackson. Siamo tra l'altro con l'ambientazione nell'estate del 2009, quando da lì a poco arriverà anche la notizia della morte del re del pop. Ma il protagonista vero del film è il quindicenne Andrea, alle prese con pulsioni non più reprimibili a livello sessuale, diciamo così, perché si è innamorato della più bella ragazza della scuola e insomma vuole, come dire, consumare questo suo amore per la sua fatidica prima volta. Insieme a lui il fratellino Tommaso, appunto 9 anni, sempre con questa maschera che lo fa somigliare al figlio di Michael Jackson, e una serie di due di picche, come si dice in gergo, ma anche di situazioni riuscite che diventeranno, salteranno per aria con l'avvento di un nonno acquisito, chiamiamolo così, in questa scena, interpretato dal grande Remo Girone, che fra poco sarà con noi. Sentiamo questa clip dal film. Ne ho sentite di ogni genere sulla prima volta. La verità è che sarà sempre diversa da come te l'aspetti. Priorità: io, Eva, scopare. Me lo tenete, Tommaso, sì o no? Scordatelo. No. No. E chi è Tommaso? A volte la vita è strana. Prima ti illude che andrai a letto con la ragazza più bella della scuola. Allora alle 8. Poi al suo posto ti piazza tra i piedi un vecchio uscito dal nulla. Sono Cesare, il nonno. Tuo nonno non era morto? No, alla fine non. Dove cazzo l'hai trovato? Non lo so, è lui che voleva venire. In una situazione del genere puoi reagire distinto e rischiare di peggiorare le cose, o metterti comodo e aspettare che la soluzione si presenti. Non mi dire che sei gay dopo tutta sta strada. E allora, la voce che avete sentito alla fine l'avete riconosciuta, proprio quella di Remo Girone, che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpura. Un saluto a Remo Girone, grazie di essere stato qui con noi per raccontarci questo Michael Jackson. Grazie a voi per questa intervista e un saluto ai vostri ascoltatori. Allora Remo, nonno, dicevamo acquisito, perché in realtà il tuo personaggio è il personaggio di un anziano che sta in una casa di riposo, con il quale i due fratelli entrano in contatto praticamente per caso, ma a un certo punto se lo trovano invece in carne e ossa in casa, un po' a metterli in imbarazzo con i suoi comportamenti, come capita spesso con gli anziani che cominciano ad avere qualche problema di demenza senile, ma che fanno anche però un po' da detonatore di alcune emozioni che i giovani tengono sopite e che invece a contatto con questa sorta di carburante esplodono veramente. Ma guarda, in realtà questo nonno sì, forse l'ha trovato alla casa di riposo, però è molto più avventuroso dei due ragazzi, e in realtà quello che lui fa poi è una specie di educazione alla vita ai due ragazzi. Quindi lui è, diciamo, apparentemente rincoglionito, ma non è così in realtà, no? Certo, assolutamente, infatti è proprio un maestro, diciamo, una sorta di... E lui fa una specie di educazione alla vita ai due ragazzini, ed è un personaggio stravagante ma molto avventuroso, no? Perché arriva... Ma è meglio non spiegare troppo di com'è, no? No, no, assolutamente, è giusto dare qualche assaggino, però effettivamente, diciamo che per esempio è un personaggio che ti ha messo di fronte, non so se è per la prima volta nella tua carriera, alla nudità, che insomma la tua età non è male. No, non l'ho fatto qualche volta il nudo, ma insomma l'ho fatto per altri film, ecco. Sì, sì, però c'è la nudità, sì, ma di spalle, no, mi sembra, no? Assolutamente, assolutamente. Però voglio dire, cioè, anche per le signore che ti hanno apprezzato in tanti anni di grandi film in televisione. Allora, Remo, il desiderio e soprattutto il bisogno di una guida, mi sembra un po' questo, se vogliamo, il tema centrale del film, quello di una generazione, e non è solo quella dei quindicenni, si può anche andare su con l'età, che ha bisogno di guide e che quando impara a sentire proprio quei sentimenti col cuore, che una persona, che l'anzianità vuol dire anche esperienza, vuol dire anche sapere dove portarti, quando si fida nascono delle alchimie imbattibili. Beh, questo sì, mi pare che sia proprio, hai trovato bene la formula della cosa, cioè lui prende questi due ragazzi e li porta verso una specie di viaggio. A quel punto il film diventa una specie di road movie, no? Che loro fanno un viaggio, e in questo viaggio il fatto di questo nonno, finto nonno, che è così disponibile a tutte le possibilità che la situazione, la vita offre, insegna qualcosa probabilmente ai ragazzi che invece sono un po' chiusi, no? Un po' chiusi in se stessi, il maggiore deve fare questa esperienza sessuale a tutti i costi, e il minore invece è chiuso in questa, in questo suo, come dire, desiderio di essere un figlio di Michael Jackson, come uno dei figli di Michael Jackson, no? E che insomma sono un po' chiusi in realtà all'esterno, alle possibilità che la vita offre. E credo che il vecchio invece in qualche modo, senza troppo sentimentalismo naturalmente, ma con molta anche qualche volta anche crudele, no? Però gli insegna come bisogna essere in qualche modo disponibili a tutto. E poi se ne va, no? Hai visto come è fatto, no? Assolutamente, ma è una sorta di angelo quasi, no? Esatto, un angelo un po', come dire, un po' brusco, ecco, un po' cattivo, no? Non proprio no? Anche con... è anche uno che si vuole divertire anche in qualche modo, no? Certo, assolutamente. Tra l'altro, infatti, sarà anche elemento attrattivo della vicina di casa che, come dire, non smette mai di mettere gli occhi addosso. Una cosa mi colpiva, Remo. Hai lavorato in questo caso con attori tutti praticamente esordienti, quasi tutti ragazzini, con due registi alla loro opera prima. Perché il protagonista, sì, invece il ragazzino... Tommaso aveva già fatto qualcosa, che tra l'altro è veramente strepitoso, devo dire, che è molto bravo, sì, è molto molto naturale, molto bravo, sì. Ti chiedevo come sei arrivato a questo film, perché hai accettato questo film? Ma perché mi hanno chiamato, mi hanno chiesto di farlo, la regista era molto interessante e poi anche una produzione interessante, cioè sono veramente degli indipendenti, come hai detto tu, e quindi era una di quelle cose che mi piaceva di fare. Io venivo da un film che avevo fatto in Canada insieme a mia moglie, che era un po' anche quello, un film indipendente fatto un po' nello stile di questo, insomma, ecco. E quindi mi piace lavorare con dei giovani, delle opere prime magari, perché insomma, poi ho letto la sceneggiatura, mi sembrava molto carina, ecco. E beh, mi ha convinto poi i due registi, Francesco Calabrese e Enrico Audenino, perché erano simpatici. E la commedia mi sembrava una commedia per ragazzi, ma come hai detto tu all'inizio della trasmissione, con un'aria un po' più non regionalista, sì, più internazionale, più di respiro, anche, diciamo, così, anche persino, diciamo, forse è quella scelta che magari, perché poi uno dei registi viene dalla pubblicità, anche ha fatto anche videoclip di pubblicità. Sì, infatti. Quindi, il tentativo è una provincia italiana, ma non si potrebbe essere tranquillamente la provincia americana che vediamo in tanti film. Sì, non è legata a una caratterizzazione regionale, diciamo, oppure solo italiana, ecco. E allora mi è sembrato carino. No, è un film generazionale, un film, è chiaramente un film per ragazzi, no? Una commedia per ragazzi, però ha questo aspetto molto molto piacevole, molto molto diverso da quello che si vede normalmente, ecco. E allora ricordiamo, Remo, l'appuntamento è nelle sale, il film, il titolo è Michael Jackson, cercatelo. Io ringrazio Remo Girone per essere stato nostro ospite alla Rosa Purpura, in bocca al lupo per tutto. Ringrazio te anche per la possibilità che mi dai di parlare con tutti i tuoi ascoltatori. Proseguiamo col nostro programma perché dobbiamo far sentire la prima traccia del film misterioso di oggi, ascoltate bene. Io penso che uno dovrebbe trattare le persone come vorrebbe essere trattato lui. Sì, vero? È vero. Lo ha detto Gesù, più o meno? Sì, e penso anche che è sempre meglio accettare un favore invece di soldi. Credo che Gesù abbia detto anche questo. Avete indovinato, avete già capito di che film si tratta? Allora scriveteci il vostro nome, cognome e indirizzo a larosapurpure@radio24.it. Provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film, del quale fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Adesso linea alla regia, torniamo insieme e attenzione, perché nella terza parte della Rosa Purpurea sarà con noi Diego Battantuono. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Prima di sentire Diego Battantuono che ci parla del film soap opera che sarà nelle sale poi nella prossima stagione cinematografica, comunque nella prossima stagione autunno-inverno, per dirla con un termine di moda, noi andiamo a dare un'occhiata invece a un evento che si svolgerà proprio questa sera per quello che concerne il settore del doppiaggio. Sono i veri e propri Oscar delle voci, si svolgono ad Alghero, ci saranno James Bond e Indiana Jones, ma anche Brad Pitt e Angelina Jolie, José Altafini in carne e ossa, e Alghero si trasforma per una notte in una sorta di succursale di Hollywood. Stiamo parlando appunto del Leggio d'Oro, l'Oscar delle voci del cinema. Un'occhiata a chi ha vinto quest'anno questo premio, che è stato inventato, nato nel 1995, miglior voce femminile Claudia Cattani per l'Angelina Jolie del film Maleficent, miglior direzione di doppiaggio Sandra Cerbo, voce di Brad Pitt, per il film 12 anni schiavo, miglior voce maschile Francesco Prando per il Ralph Fiennes di Grand Budapest Hotel, miglior voce femminile dell'anno Roberta Greganti, e miglior voce maschile dell'anno Fulvio Aquilone. Premio alla carriera Michele Gammino, un grandissimo del doppiaggio, e voce di telefilm cult Edoardo Nevola, mentre la rivelazione del cartoon è proprio José Altafini, che è nel cast vocale di Rio 2 dove interpreta Luis, e quindi ha vinto un premio anche il simpatico ex calciatore di tante squadre grandi italiane, Milan, Juve, Napoli, tanto per dirne alcune. E allora questo per quel che concerne l'Oscar delle voci, Leggio d'Oro, questa sera ad Alghero. Se ci ascoltate dalla Sardegna potete anche fare un salto e troverete tanti di questi personaggi. A questo punto noi andiamo avanti e parliamo di cinema che verrà, di cinema della prossima stagione autunno-inverno, come dicevamo, un film intitolato Soap Opera, la nuova commedia di Alessandro Genovesi, sarà con noi fra poco. Diego Battantuono. Buonasera. Buonasera. Anche lei qui per la... Sì, sono qui per la... Buonasera. Buonasera. Un momento estratto dal dietro le quinte della lavorazione. Ancora non si tratta delle voci, quelle che sentiremo poi definitive, dell'audio del film, ma insomma sono momenti strappati alla lavorazione sul set di soap opera di Alessandro Genovesi. Avete sentito proprio in questo frangente Ale Franz interloquire proprio con Diego Battantuono, che tra l'altro nel film ha un imponente, diciamo, abito da carabiniere in gran livrea. Il regista, lo ricordiamo, è quello del peggior Natale della mia vita e poi nella peggior settimana della mia vita, grandi incassi, ma anche sempre la capacità di fare commedia con garbo e con profondità, ed è questa la cifra di Alessandro Genovesi, che completamente a Cinecittà ha ricostruito questa sorta di condominio nel quale è ambientato questo nuovo film soap opera, che in realtà ha poco a che fare con la soap opera come la intendiamo, ma è la soap opera della vita quotidiana, della vita dei personaggi di questo film. Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Battantuono appunto, Ale Franz, ma anche Ricky Memphis, Caterina Guzzanti, insomma, come sempre i personaggi che poi portano la gente al cinema e divertono il pubblico italiano. Un condominio degli equivoci potremmo chiamarlo, dove ancora una volta la vigilia di Capodanno, nei tre giorni precedenti, si incrociano i destini di questi strani abitanti di quattro appartamenti. E allora noi abbiamo avvicinato proprio in quel delle giornate del cinema di Riccione, ne parlavamo prima, grande evento nel quale abbiamo anche potuto vedere il film di Sergio Leone, dicevo, abbiamo avvicinato Diego Battantuono, che ci ha raccontato un po' com'è stato far parte ancora una volta di questa grande famiglia del film di Alessandro Genovesi. Diego, siamo arrivati tardi al cinema perché abbiamo visto bei 10 minuti veramente belli di soap opera, e poi quando arrivavi tu hanno spento e quindi però ti abbiamo visto col pennacchio. C'è un motivo, perché per creare l'interesse tu devi fare così, si sa. Se tu dici, se fai vedere, se sveli tutto, se non vorrei entrare e passare dalla padella nella brace, ma insomma, delle donne, cosa ti piace? Insomma, ti piace quello che non vedi. Più vedi subito e meno ti interessa. Io non vorrei diventare sinonimo di... E non voglio dire, però... Insomma, è come se avessero tenuto le mutande sul mio personaggio, diciamo. Senti, no, ma quanto ti è piaciuto sto ruolo, questo film, questo clima che in quei 10 minuti a noi è sembrato molto, molto convincente. Strepitoso, il film è strepitoso, te lo dico io, ha un clima originalissimo, unico, è una scenografia fantastica, hai visto che è come emozionante da vedere, poi ti viene voglia, ti tira dentro subito, ti fa ridere e ti tira dentro, c'ha questo doppio e continua così. Cioè, quando entro io è una cosa in più, io sono clamoroso dal punto di vista della quantità in scena con questo, con queste divise, poi c'è il rapporto con la Francini che è molto divertente, con gli altri, io poi porterò tutti al commissariato, c'è una scena dell'indagine che è veramente bella. Io poi ho dei denti finti nel film che sono fantastici, che tenevo lì da qualche film, aspettavo il momento giusto e devo dire che i genovesi l'ha colti in pieno, perché sembrano in qualche modo parte della divisa stessa, c'è un sorriso antiproiettile. Sbagliante. Genovesi che però veramente tu ci hai lavorato già tanto, insomma si sta veramente affermando come uno che ha trovato una strada dentro la commedia italiana. Io devo dirti la verità, io ho cominciato con Salvatores, che Salvatores era praticamente quasi esordiente, ho lavorato con Ivanzina era esordiente, poi sulla mia strada ho incrociato Veronesi, con il quale ho fatto 2 film, credo, non voglio dire, ma secondo me sono fra i più belli che ha fatto, sia Per amore solo per amore che Il barbiere di Rio, e così via, ne ho incrociati tanti. Quando ci si trova bene in genere si va avanti, ecco, io con lui ho fatto adesso 2 film, un altro poi che aveva fatto Gabriele che aveva scritto lui, e quindi insomma è un rapporto che mi piace. Il cast è fantastico del nostro film, di questa soap-opera, tutti attori con i quali ho già lavorato, rotazione, Ale Franza ha fatto un film con me, sono miei amici, ha fatto un film dove ho fatto io la regia, Ricky Memphis la stessa cosa, pensa com'è strano, io ho fatto un film per la TV dove ho fatto la regia io e avevo preso sia Ricky Memphis che Ale Franza. E Fabio insomma, è un amico, abbiamo lavorato tanto insieme, siamo della stessa, lui lavora con la Colorado, insomma è veramente una famiglia che, muovendo alcune pedine a seconda del film, fa delle cose belle e emozionanti, questo è veramente molto bello. Senti, hai parlato di delle tue esperienze di regia, mi incuriosiva il fatto che a un certo punto hai un po' rallentato, cioè di solito quando uno passa alla regia poi dopo va via con la regia. La regia è una cosa che prevede un costo alto, il cinema non è un... se io faccio l'esordio alla pittura, compro 2 pennelli e una tela, se viene una cagata lo butto via, ho speso 20 euro, con la scrittura uguale, un bel foglietto con una matita vai avanti quanto vuoi. Il cinema è molto costoso, quindi per fare una cosa devi trovare una cosa giusta. Io casualmente, dopo quell'esperienza che ho fatto, che era per la TV e l'ho fatta con una regia a 4 mani, insomma ho commesso degli errori, ho capito delle cose, o qualcosa di buono c'era, però devo trovare una cosa. Da allora ho lavorato praticamente sempre, e per fare il regista devi star fermo un anno almeno, non puoi io c'ho 322 persone che ruotano attorno, capito, mogli, figli, allora quando stai fermo un po' vedi che lo Stato, che è il mio socio al 50%, e quindi che vuole i soldi anche prima, oltretutto in base all'anno prima, quindi tu non puoi, stai fermo un anno e devo pagare, ma io non ne ho presi quest'anno e non so come fare, e allora devo ricominciare a lavorare, quindi ecco, se vogliamo dire proprio un po', ecco, no, un po' è colpa mia, devi organizzarti molto bene per poter fare, oltre ad avere una cosa alla quale credi molto, perché non si buttano via i soldi, devi crederci molto e devi avere il tempo di seguirla, se no non puoi farlo. Spero di farlo al più presto. E allora, in attesa di vedere o rivedere Diego Patantuono dietro la macchina da presa, noi giochiamo ancora insieme, perché dobbiamo farvi ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Il tizio che lo ha dipinto, agli occhi di tutti, era bravo quanto il vero pittore. Allora, chi è l'artista? Il pittore oppure il falsario? E allora, chi è l'artista, il pittore oppure il falsario? Ma che film è questo? Soprattutto scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo di posta ordinaria a larosapurpurea@radio24.it per provare a ricevere, ove siate fra i primi ascoltatori ad avere indovinato del sabato e della domenica, le 2 copie in Blu-ray di questo film che vi aspettano. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, la Rosa Purpurea, quarta parte. Dobbiamo finire di ascoltare l'intervista con Diego Abatantuono, protagonista, fra i protagonisti di Soap Opera, uno dei film italiani, le commedie italiane più attese della prossima stagione, perché, come dicevamo, si è soffermato anche sui suoi trascorsi riccionesi, visto che si era lì a Riccione proprio di fronte al mare, raccontando appunto di come mai è così legato a quel posto e soprattutto di quante ne hanno combinate lui e Ugo Conti. Allora, io ho preso la casa nell'82, da quando l'ho presa c'erano i miei genitori che sono venuti scettici da Milano e non sono più andati via finché ci sono stati, poi non ci sono stati più. I miei figli sono nati in questa casa, tutti e tre, sono nati i figli dei miei figli e hanno fatto le vacanze in questa casa. In questa casa io ho un campo di calcio dove abbiamo giocato tutti noi, tutte le estati, e hanno giocato i calciatori, venivano da Costa Curta, Ambrosini, veniva Rigo Sacchi, venivano tutti a giocare, sono venuti tutti i DJ della zona, da Fiorello, a Fargetta, tutti quelli con cui giocavamo anche nella nostra nazionale. Tutte le estati sono state clamorose, io non potrei dirtene una, è impossibile, potrei dirti l'anno che avevo un Mercedes col tettuccio apribile, siamo andati a bere una moretta, che si beveva la moretta, una roba strana di caffè che dovrebbe tenerti sveglio ma è piena di alcol, quindi da embriaghi, e tornando a casa mia facevo cantare a Ugo Conti cantava Vita Spericolata con la testa fuori dal tettuccio. Io un po' alla volta chiudevo il tettuccio, perché sai, da colpettini, fino a che non è arrivato al gargarozzo il tettuccio, e lì non potevo continuare. Però siamo arrivati davanti a casa e lui lì tutti fuori attorno ed è canta, lui a un certo punto si è rotto i maroni perché voleva uscire, ha detto vabbè dai basta, e però non mi ricordavo più se il tasto dovevo spingerlo da una parte o dall'altra per aprire, e prima di rischiare il gozzo ci abbiamo pensato molto, quindi il libretto dell'istruzione, immaginati la condizione. Mi veniva in mente il club delle gomme lisce di Castiglioncello, no? Dove si trovavano, cioè una roba di quel tipo lì. Castiglioncello è stato un altro posto dove, pazzesco, perché c'era un locale che si chiamava il Ciucheba, che era di Mauro Donati era un mio amico carissimo, che io ho conosciuto quando facevo il tecnico dei Gatti di Miracoli, noi andavamo là, dormivamo lì da lui. Poi dopo, un giorno lui ha sposato una ragazza e qualche anno dopo io ho sposato sua sorella, quindi siamo diventati cognati. Poi dopo lui ha avuto una figlia e l'ha chiamata Mia, con la M. Poi dopo anni ho avuto una figlia, l'ho chiamata Marta. Poi dopo lui ha avuto due maschi da una seconda moglie, si è separato, che si chiamavano Mattia e Michelangelo. Io ho avuto due figli da una seconda moglie, si chiamano Matteo e Marco. E a Castiglioncello ogni anno c'era una festa del suo compleanno che finiva in tragedia di ilare. E per dirti, quindi tu dove vai, dove tocchi, trovi il burro. Non ci siamo fatti mancare niente. Come sempre simpatico Diego Abatantuono a raccontarci anche questi aneddoti della sua vita personale, delle sue vacanze, e chissà che cosa è stato appunto fare le vacanze con quella combriccola. E allora continueremo con le interviste sui film che verranno della stagione italiana proprio dalla prossima settimana, ancora con le novità del nostro cinema. Adesso invece andiamo alle novità dell'home video e andiamo anzi a risolvere prima di tutto il nostro game, il nostro film misterioso della scorsa settimana. Oh, però scusami se te lo dico, è da gran cazzone stupido, no? Il George Washington Bridge. Uno va a gettarsi giù dal Brooklyn Bridge, tradizionalmente. Il George Washington Bridge. Chi lo fa? Si trattava di A proposito di Davis, Inside Llewyn Davis, il film dei fratelli Coen, una delle cose più belle, anche musicalmente, che si sono viste durante la scorsa stagione. Adesso disponibile in home video. Noi spediamo il nostro Blu-ray a Ruggero Tonelli di Cazzago San Martino, provincia di Brescia, e Luca Zinnanti di Trieste, che sono stati i primi due del sabato e della domenica a indovinare il titolo del nostro film, del quale adesso ci facciamo raccontare, per quanto riguarda l'home video ovviamente, Vita, Morte e Miracoli, dagli amici di Phil TV. È con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, a proposito di Davis, ultimo film di due maestri del cinema americano ad oggi, fratelli Coen, è un gioiello kafkiano su un altro di loro loro perdenti, un cantante folk la cui quotidianità è sfumata continuamente in un teatro dell'assurdo. Ottima la resa video del Blu-ray che esalta la fotografia di Bruno Del Bonnel, pittore della fotografia, già autore dell'inquadratura del Faust di Alexander Sokurov, che qui si confronta con un onirismo soffuso. L'audio invece ci fa godere pienamente delle canzoni in un DTS HD, nonostante sulla fascetta abbiano giocato a ribasso dicendoci che sono in Dolby Digital 5.1. Extra decisamente notevoli interviste agli autori e protagonisti, un making of di 40 minuti. Un'altra delle novità, un video di questo periodo, è un film che è importante recuperare, è partito con il suo percorso praticamente un anno fa, la Mostra del Cinema di Venezia, un film documentario, ma documentario in questo caso è un po' restrittivo perché c'è davvero anche tanta finzione dentro questa rimessa in scena del personaggio del giovane Federico Fellini, e quando a farlo è un grande del nostro cinema come Ettore Scola, sicuramente il risultato è assicurato. Stiamo parlando di Che strano chiamarsi Federico. Salve, e sono Federico Fellini. Avevo scritto al direttore Vito De Bellis. Sei in redazione, magari lo vorrei incontrare. Venite. Salve. Allora, voi mi avete scritto da Rimini. Da Rimini, sì. Graziosa cittadina di mare. Vi vinsi il littoriale di pugilato. Davvero? Nel 1932, anno decimo dell'era fascista. Mi avete portato qualcosa? Ecco, guardate, questi. Questa mi fa ridere. Presentato all'ultima mostra di Venezia, Che strano chiamarsi Federico è un piccolo ritratto di un grande personaggio, come l'ha definito lo stesso regista, ovvero Federico Fellini nell'album dei ricordi di Ettore Scola, che ritorna alla regia 10 anni dopo Gente di Roma. È un memoir colmo di materiali e cimeli, un documentario sentimentale e biografico che trascolora nella finzione. Per chi se lo fosse perso al cinema, un ottimo modo per continuare a celebrare il genio di Fellini, a cui nel DVD si aggiunge tra l'altro un piccolo dietro le quinte. E allora, questo era Che strano chiamarsi Federico. Avete visto, ritorna Rimini dopo Riccione, evidentemente, corsi e ricorsi storici romagnoli in questa nostra puntata della Rosa Purpurea. Trasferiamoci ai palinsesti televisivi della prossima settimana, perché domenica 20 luglio vogliamo segnalarvi un film che vale davvero la pena vedere. Stiamo parlando di Flash of Genius, che andrà in onda su Iris alle 21, appunto domenica 20 luglio, in prima serata. Un film che racconta come la nascita del tergicristallo sia stata una delle più grandi frodi della storia. Industriale. Nel 1967 tutte le grandi industrie automobilistiche del mondo cercavano il modo di inventare il tergicristalli a intermittenza. Ci riuscì. Ehi papà, mamma vuole sapere dov'è il frullatore. È qui sotto, lo sta smontando. Un professore universitario di Detroit. La Ford è molto interessata. Però la Ford. Sei pronto? Il vincitore della gara per il tergicristallo ci dovrà fornire una unità funzionante. Capisco che io avrò bisogno delle vostre auto per il mio tergicristallo. Si sono tirati indietro. Chi si è tirato indietro? La Ford. Indietro. Hanno il prototipo. Lo so. Mi chiedo che cosa porti un uomo ad avere successo. Il cervello, il talento. Certo, ci sono tanti uomini di talento che non hanno successo. Flash of Genius su Iris alle 21 di domenica, una piccola chicca che parla il linguaggio del cinema classico, storia verissima dell'ingegnere e inventore americano Robert Kings, professore universitario che nel 1964 inventò e brevettò il tergicristallo a intermittenza elettrico per automobili che usiamo tuttora, ma la cui idea fu sottratta dalla Ford e dalla Chrysler. Il film ne fa un ritratto decisamente accurato e racconta la vicenda di una lotta contro un potere ingiusto, come se fosse un legal thriller. Non ho controllato, ma direi che ogni parola che c'è in questo libro si può trovare sul dizionario. Immagino che probabilmente sia vero. Bene, allora converrà che probabilmente non c'è una singola parola nuova in questo libro. Beh, non lo so, ma probabilmente è vero. Charles Dickens non ha fatto altro che sistemarle con uno schema diverso, non ne conviene. Ammetto di non aver mai considerato questo punto di vista. Però Dickens ha creato qualcosa di nuovo, no? Usando le parole. Gli unici strumenti che erano lì a sua disposizione. Così come quasi tutti gli inventori della storia hanno dovuto usare gli strumenti che erano a loro disposizione. Tecnicamente questo è vero, sì. Non ho altre domande. Flash of Genius allora su Iris alle 21 di domenica 20 luglio. Due giorni dopo, martedì 22, su Rai 5 alle 21.15, il grande Aki Kaurismäki con il suo film del 2002, L'uomo senza passato. In piena conformità al comma 8 dell'articolo 2 della legge sulla salute mentale, il suo assistito verrà indirizzato, indipendentemente dalla sua volontà, in un istituto psichiatrico perché palesemente bisognoso di cure a causa di un grave disturbo mentale che senza le suddette cure rischierebbe di peggiorare fino a raggiungere una irreversibile cronicità. In conformità al primo codicillo del comma in oggetto, le cure da lei citate possono essere applicate solo qualora non risulti possibile l'utilizzo di nessun altro servizio alternativo per la tutela della salute mentale del cittadino. Inoltre, per poter applicare l'articolo di legge in questione, avreste dovuto procurarvi entro e non oltre 48 ore l'impegnativa di un medico per sottoporre il soggetto a un periodo di osservazione. Ve la siete procurata questa impegnativa? Parliamo di L'uomo senza passato su Rai 5 alle 21.15 di martedì, uno dei grandi capolavori di Aki Kaurismäki, tra i grandi autori d'oggi, con il suo trassoniato surrealismo proletario, il suo rigore che diremmo bressoniano, il suo malinconico e vignettistico realismo poetico. Qui racconta di un uomo che perde la memoria e tutto il resto, ne segue la rinascita e sa dirci come al solito moltissimo della condizione umana, della società, con un pudore, un disincanto, una sublime ironia decisamente impagabile. Ti capita spesso di cucinare? Non tanto spesso. I piselli erano buoni. Sono stato sulla luna. Davvero? E come l'hai trovata? Molto tranquilla. Hai incontrato nessuno? Veramente no, sai, era domenica. È per questo che sei tornato? Sì, sì, e anche per altri motivi. L'uomo senza passato su Rai 5 alle 21.15, ancora in prima serata, martedì 22 luglio. Grazie al nostro Giulio San Giorgio, grazie agli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla conclusione del nostro programma. Vi ricordo l'appuntamento per sabato prossimo alle 15.30. Per chi ci ascolta in replica, la domenica alle 14.30. Continueremo con tanti ospiti il nostro viaggio nel cinema del presente e dell'immediato futuro. Vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace e restate con noi tutta la settimana. Un saluto da Franco D'Assisti.